721. Mele all'inglese. Questo piatto potreste anche chiamarlo pasticcio di mele, che il nome non sarebbe improprio. Prendete mele rose o di altra qualità duracine. Levate loro il torsolo con un cannello di latta, sbucciatele e tagliatele a fette rotonde e sottili. Poi mettetele al fuoco con l'acqua sufficiente a cuocerle e un pezzetto di cannella. Quando saranno a mezza cottura, versate tanto zucchero da renderle dolci e un poco di candito a pezzettini. Prendete un piatto di rame o un vassoio di porcellana che regga il fuoco. Versatele nel medesimo, copritele con pasta frolla, mettetele in forno o nel forno da campagna e servitele calde per dolce.